come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti in questo momento. 800 24 00 24 è il numero verde, ve lo ripeto, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. SMS 349-238-6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo dritti con i titoli del TG2. Sicurezza, via dal disegno di legge la norma sui prestiti spia per iscrivere a scuola i figli di immigrati, non servirà il permesso di soggiorno, decisione dopo un vertice di maggioranza. Se l'Opel verrà acquistata dal gruppo Fiat, tutti gli stabilimenti continueranno a produrre, ma i sindacati tedeschi temono tagli per 10.000 posti di lavoro. Uccide a colpi di pistola moglie e suocera, poi si toglie la vita. Ancora senza un perché, la strage familiare a Rimini. L'uomo era un maresciallo della Guardia di Finanza. Nuovo attacco a un mercantile italiano nel Golfo di Aden. Pirati messi in fuga dalla nostra marina militare. Decisivo l'intervento della fregata Maestrale. Parla al TG2, il primo italiano risultato positivo, mai avuto paura, mi sentivo bene, 5 casi in Italia, 1400 nel mondo, il Messico conferma, c'è una riduzione dell'influenza. Ancora sulla vicenda Berlusconi, Veronica Lario, Silvio Berlusconi, Veronica Lario, una strepitosa intervista di Vittorio Feltri oggi al Riformista. Domanda: senta, il problema del Cavaliere è il suo debole per la gnocca, è il debole di tutti, lui ha un atteggiamento da bar dello sport, lo dico senza offesa, presente quelli che quando vedono una donna dicono buona quella o te la sei fatta, comunque sono certo che il paese, il Don Giovanni da bar lo perdone. Poi un attacco ancora, come ha fatto in questi giorni, a Veronica Lario. Non vuole solo separarsi, vuole distruggere politicamente il marito. Studi aperto. Scoperto un altro rifugio lager per clandestini. A Milano, in 45 metri quadrati, dormivano stipati 27 cinesi, quasi tutti irregolari. Pagavano 15 euro a notte. La maggioranza trova un accordo sul DDL sicurezza, tolta la norma sui presidi spia. Per iscriversi a scuola non servirà il permesso di soggiorno. In manette a 16 anni con l'accusa di tentato omicidio. Uno studente romano ha ferito con un coltello un compagno di classe durante una lite. È il secondo caso in pochi giorni nella capitale. Un fenomeno preoccupante nel Lazio, dice il ministro Meloni. Nuovo attacco di una nave italiana nel Golfo di Aden. I pirati tentano di assaltare la Neverland, ma vengono respinti da un elicottero e dalla fregata Maestrale della nostra marina militare. Turchia, strage al matrimonio della figlia del capo del villaggio. Uomini armati di fucile e granate massacrano 44 persone. Tra le vittime molte donne e bambini. All'origine della carneficina una faida familiare. Bene, 18:42, 800 24 00 24. Ancora una volta, dopo ieri, voglio difendere assolutamente Romanzo criminale, che è, oltre che uno strepitoso romanzo di Giancarlo De Cataldo, anche una stupenda serie messa in onda da Sky recentemente, la storia un po' romanzata della banda della Magliana, alcuni suoi epigoni, eccetera eccetera. Ecco un Dammazzi che si mette contro per cimitero dei martiri della Magliana. Ma mo che c'è tutta Roma contro, sto cimitero la da chiude, te devi scavare la fossa tua e levati. Che vuoi? Spara io. Ma è un cadavere. E tu gli spari lo stesso. Ma lo vedi, è morto. Spara gli. Deve essere chiaro che l'abbiamo fatto tutti e tre insieme. Ma chiaro a chi? Che siamo la mafia che quando ammazza parla in codice. Ho detto spara gli. Insomma, la violenza certamente c'è, eccede anche, domina all'interno di Romanzo criminale, ma il sindaco di Roma va oltre, dice le coltellate, sembra l'ultima moda tra i giovani non solo della capitale, sono tutta colpa della fiction. Certe serie televisive lanciano atteggiamenti e modi di fare sbagliati che inveleniscono il clima. Giustamente oggi, secondo me, lo scrittore anche sceneggiatore, se vogliamo, di Romanzo Criminale by Sky, Giancarlo De Cataldo, che è anche magistrato, dice: e allora cosa dovremmo dire? Che Hansel e Gretel dei fratelli Grimm educa ad abbandonare i figli? E non mi sembra una risposta banale. A proposito invece di banalità e, se vogliamo, anche di stupidaggini assolute, Franco Zeffirelli, che certamente persona stupida non è, un grande uomo di cultura, uno dei grandi uomini di cultura di questo paese per quello che ha fatto, eccetera eccetera, però insomma derapa un attimino e dice: beh, insomma, Veronica, Lario, e torniamo con questo naturalmente a parlare del divorzio, della storia degli ultimi 10 anni, della vera storia, della vera notizia degli ultimi 10 anni, il divorzio Silvio Berlusconi, Veronica Lario. Zeffirelli, dicevo, cosa dice? Beh, insomma, si è fatta un po' influenzare dagli infiltrati di sinistra, pensate un po', gli infiltrati in casa Lario. Questa con la politica, il divorzio di Berlusconi non c'entra nulla, mi pare. C'entra un po' perché la signora Berlusconi è stata molto, molto frequentata da infiltrazioni che l'hanno messa contro il marito anche politicamente. Quindi, però, poi sono affari loro, eh? Hanno 4 figli insieme, vuol dire che qualche un po' di schiuma è passata. Qualcosa è successo. Ieri a 8:30, se non sbaglio, ha detto la sua anche Eugenio Scalfari sulla vera storia degli ultimi 10 anni, diciamo la verità, perché il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario è una cosa enorme, una cosa di cui si occuperanno i giornali nei prossimi anni in tutti i particolari, come giusto che sia, perché non è un fatto privato, è un fatto assolutamente pubblico. Allora Eugenio Scalfari, persino lui, dice: sì, certo, il divorzio rimane comunque un fatto privato tra due coniugi, e però il divorzio tra moglie e marito è chiaramente una questione privata, e anche tra due persone, una delle quali è investita di ampi poteri politici, la questione, a mio avviso, rimane privata. Salvo che le motivazioni che una delle parti dà alla questione non siano motivazioni che attengono all'etica pubblica oltre che privata. E secondo lei lo sono? Beh, da come la signora Lario le ha presentate, sì. L'etica pubblica messa in causa, secondo Eugenio Scalfari. Ringrazio per essere con noi Fabrizio Rondolino, giornalista, scrittore, autore televisivo. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, lei è andato oltre però. Lei è andato oltre. Leggo su internet, nel suo profilo di Facebook, lei scrive: Berlusconi oggi è in pericolo. Cioè, il vero pericolo gli viene in realtà dalla moglie, perché poi impazza dappertutto, i sondaggi sono a lui largamente favorevoli. Questo pericolo va sfruttato fino in fondo e senza alcuno scrupolo. Lei parla naturalmente dell'opposizione politica, o comunque di chi non ha piacere che Berlusconi sia Presidente del Consiglio. In che modo va sfruttato fino in fondo, secondo lei? E perché è giusto sfruttare questa cosa? Ma io credo che la misura sia colma, perché non è qui tanto in discussione un matrimonio che finisce e neanche un tradimento, e neppure il famoso diritto alla privacy, no? Per cui ciascuno nella propria camera da letto fa tutto, e ne fa tutto quello che vuole, diciamo, purché questo non danneggi, eccetera eccetera. È diventato invece, come racconta Veronica Lario, io tendo a crederci perché insomma è la moglie, ci ha vissuto per 30 anni, qualche cosa saprà, un vero e proprio sistema di selezione del personale politico, di selezione del personale televisivo, di selezione del personale musicale, diciamo così, di questo paese, cioè un pezzo di classe dirigente di questo paese, perché la soubrette e il ministro sono un pezzo della classe dirigente, vengono selezionati nelle alcove private di Silvio Berlusconi, un uomo malato che se la fa con le minorenni, secondo la frase di Veronica Lario. Ma lei l'ha interpretata in maniera un po' netta, diciamo, questa frase. No, ha detto un uomo malato, ha detto: io mi sono rivolto ai suoi collaboratori più volte, sì, sì, perché se ne occupassero come si farebbe con una persona malata, cioè che ha perso il controllo dei propri atti, questo significa malato, no? Allora, le scappatelle fanno parte della vita, nessuno di noi è un moralista, anzi siamo tutti, diciamo così, dei peccatori, E tuttavia c'è una soglia oltre la quale diventa un problema politico, nel senso che diventa un problema, non so come dire, di sicurezza nazionale, perché potremmo anche immaginare che da queste centinaia, forse migliaia di ragazze che ricevono le collanine, no, i regalini, che vanno alle feste del cavaliere, magari c'è anche un'agente segreta travestita. Adesso la metto a ridere, insomma. Ma ecco, ma politicamente l'opposizione, secondo lei, dovrebbe sfruttare fino in fondo questa cosa, in che modo? Dovrebbe fare controinformazione. Noi, i telegiornali italiani, pubblici e privati, che rispondono tutti a un medesimo padrone, che è questo stesso Silvio Berlusconi di cui parliamo, hanno praticamente censurato la vicenda. Le parole di Veronica non sono state riportate da nessun telegiornale, forse dal TG3. Tuttavia siamo un paese ancora relativamente libero, perché esiste la stampa. Beh, non parlerà anche lei del Turkmenistan, per carità, né darà retta alla Freedom House. No. Prendo atto del fatto che in Italia non c'è un'informazione televisiva libera, perché la voglia del primo ministro non può dire in televisione quello che pensa, lo può dire sul Corriere della Sera, sulla stampa. Beh, forse non lo vuole dire in televisione. Se qualcuno, io credo che le richieste di interviste le saranno arrivate a Veronica Lario. Lei dice di no da parte del TG1, non hanno il coraggio? Può darsi che siano arrivati, io questo non lo so. So però che la signora Lario ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono state riprese, lei dice, dai grandi network nazionali. Che non sono state riprese, ad esempio questa qua delle minorenni, che non è un dettaglio da poco. No, però diciamo i giornali l'hanno riportato con grande spazio, le radio come la nostra, eccetera. Infatti proprio questo stavo dicendo, mentre la televisione mi sembra al momento ostruita da un gigantesco conflitto di interessi e anche dalla pochezza professionale di chi la dirige in questo periodo, mentre invece esistono i giornali, esistono le radio, esiste internet, soprattutto la stampa internazionale. Allora, quello che bisogna fare è documentare la vita di quest'uomo, perché tutti sappiano con chi abbiamo a che fare. Esistono, ripeto, centinaia, forse migliaia di ragazzine che hanno incontrato quest'uomo in questi mesi, in questi anni. Andiamole a scovare, conosciamole, vediamo le loro foto, i loro video, i loro ricordi, facciamoci raccontare chi è Silvio Berlusconi. Ma io credo che questa operazione però nel passato sia stata anche fatta, cioè quella di cercare persone che hanno avuto contatti e storie. Ricordiamo recentemente la storia, non mi ricordo, di un'autrice televisiva, non so, queste cose periodicamente vengono fuori, vengono raccontate anche con dovizia di particolari, dettagli, eccetera eccetera, persone che si confessano, e tutto più o meno continua poi come prima, insomma. Cioè, in che modo queste vicende poi hanno in realtà un'importanza dal punto di vista pubblico, me lo spieghi? Ma guardi, io devo fare una premessa, la faccio adesso alla fine, ma spero che gli ascoltatori siano arrivati fin qua. E non è che io sono molto, diciamo, felice, contento di quello che vado dicendo, nel senso che mi sembra, come dire, che all'origine c'è un giudizio davvero molto triste su questo paese, su come siamo finiti, perché è evidente a tutti che non si fa così la lotta politica. Io mi vergogno che si faccia così la lotta politica. Penso però, visto che l'opposizione politica di fatto non c'è, oppure prende strade che a me personalmente piacciono poco, penso a Di Pietro, al giustizialismo, i magistrati, che siano rossi o che non siano rossi, comunque in virtù del lodo Alfano hanno oramai la strada sbarrata. La televisione, abbiamo appena detto, che è tutta sua. E forse Velinopoli, diciamo così, può innescare un processo di crisi del berlusconismo reale, una volta che tutti gli altri strumenti sono spuntati. Ho capito. E posto che uno debba porsi come obiettivo quello di far cadere il governo e di distruggere l'immagine di Silvio Berlusconi? Beh, questo è evidente. Siamo un paese libero. Nel momento in cui, appunto, invito amici e colleghi a documentare le malefatte di Silvio, riconosco il diritto di tutti gli altri a difenderlo, ci mancherebbe. Oggi l'Avvenire scrive: sappiamo che un uomo di governo va giudicato per ciò che realizza, per i suoi programmi e la qualità delle leggi che contribuisce a varare, ma la stoffa umana di un leader, il suo stile e i valori di cui riempie concretamente la sua vita non sono indifferenti, non possono esserlo. Per questo noi continuiamo a coltivare la richiesta di un presidente che con sobrietà sappia essere specchio, il meno deforme, all'anima del paese. Mi sembra che la sua posizione incredibilmente sia quasi vicina a quella di Avvenire, o no? Beh, è anche un po' un imbarazzo per loro, perché adesso, diciamo la verità, per chi? Per i vescovi. Ah beh, sì, infatti il mondo cattolico vicino alla PDL è un po' in subbuglio. La Chiesa italiana in questi anni ha trascato pesantemente con Silvio Berlusconi, ne ha avuto anche dei vantaggi, dall'ICI sugli immobili, ai finanziamenti alle scuole private, al Family Day, a tutta una serie di cioè, allora queste cose a noi ciniconi, laici, giornalisti, osservatori, eccetera, alla fine ci fa un baffo, però esiste anche un'opinione pubblica cattolica, viva Dio, che crede in alcuni principi. Allora, beh, certamente questo articolo, questo fondo di Avvenire di oggi è testimonianza di una discussione che c'è comunque in quel mondo. Intanto Berlusconi sceglie Porta a Porta, Berlusconi sceglie Porta a Porta per replicare le cose che sono state dette in questi giorni, evidentemente. E prima dichiarazione uscita sulle agenzie: in questo momento sono stato accusato di cose false, la sinistra e la sua stampa non riescono ad accettare la mia popolarità che al 75% fa solo attacchi personali fondati su calunnie. Anche qui è uscita fuori la questione da parte di Berlusconi del complotto della sinistra, sì. Ma sa, questa è una strategia comunicativa abbastanza semplice, tutto sommato, nel senso che la conosciamo molto bene. Quando con il giudice è stata la stessa cosa. Quando una cosa a Berlusconi non piace è un complotto della sinistra, il che potrebbe anche essere vero, nel senso che in un mondo fantastico, diciamo, può anche succedere che Franceschini e D'Alema convocano Veronica, però resta il fatto che Veronica quelle cose le ha dette, dunque le avrà forse pensate, magari le invita a insistere sulle due cose su cui peraltro pure Travaglio invita a insistere, cioè sulla questione delle minorenne e sulla questione dell'uomo malato. Va bene, grazie a Fabrizio Landolino. I titoli del TG3. Vertice sulla sicurezza, la maggioranza fa marcia indietro sui prestiti di Spia e sulla norma anti-racket, non escluso il ricorso alla fiducia. L'opposizione dal governo ronde xenofobia mentre si tagliano le risorse alle forze dell'ordine, stamane la protesta dei poliziotti. Il quotidiano dei Vescovi contro il Premier, troppo ciarpame, serve più sobrietà a Berlusconi, ma la colpa è dei giornali di sinistra. Nelle tendopoli abruzzesi cresce la preoccupazione per il decreto del governo, i soldi disponibili non sarebbero quelli promessi. Fiat Opel, Marchionne rassicura Berlino, tutti gli impianti resteranno aperti, ma i sindacati sono preoccupati, a rischio 10.000 posti di lavoro. Troppi coltelli nelle tasche degli adolescenti, altri 7 ragazzi denunciati vicino a Roma, portavano armi da taglio. Da Jovanotti a Ligabue, da Ferro a Zucchero, da Battiato a Ranieri, 56 grandi artisti cantano insieme per raccogliere fondi. Questi titoli del TG3, intanto Berlusconi sta registrando Porta a Porta e ha appena detto una cosa importante per quello che riguarda questa vicenda, naturalmente, del divorzio con la moglie. Chi è incaricato di una funzione pubblica come il Presidente del Consiglio può accettare la continuazione del rapporto, e stiamo parlando del rapporto con la moglie evidentemente, soltanto se si capisce che due situazioni false hanno provocato un certo comportamento e se si dichiara di essere caduti in errore. E dunque mia moglie dichiari di essere in errore. Vedremo naturalmente la reazione di Veronica Lario in questa meravigliosa soap opera che è iniziata qualche giorno fa alle 19:20. Sentiamo i titoli di Sky. Berlusconi e la bufera, divorzio, tutto è nato dagli attacchi calunniosi della sinistra. DDL sicurezza, si va verso la fiducia, la maggioranza ritira la norma sui prestiti di Spia. Marchionne rassicura Opel, ma per i sindacati tedeschi sono a rischio 10.000 posti. Tramonti all'Ecofin ci porta ad esempio i conti italiani migliori degli altri grandi. Influenza A a Firenze, il quinto caso italiano, nel mondo i morti sono 30. Nuovo assalto nel Golfo di Aden, la fregata Maestrale mette in fuga i pirati. Rimini finanziere uccide moglie e suocera a colpi di pistola, poi si suicida. Palermo, la finanza sui beni di Cosa Nostra, maxi sequestro da 300 milioni. Ecomafia, un affare da 20 miliardi, Legambiente presenta il conto dei crimini ambientali. Champions League, derby inglese per la prima finalista, tra poco in campo, Arsenal-Manchester. Bene, 800-24-00-24, prima di andare agli ascoltatori, li abbiamo tenuti in attesa già da qualche minuto, risentiamo però una delle frasi del giorno, perché per carità la potete pensare come volete sul caso Silvio Berlusconi, Veronica Lario, però parlare di sobillatori della sinistra che influenzano la moglie del Premier, questo mi pare francamente, almeno secondo me, eccessivo. Lo dice Zeffirelli. Questa con la politica, il divorzio di Berlusconi non c'entra nulla, mi pare. C'entra un po', perché la signora Berlusconi è stata molto molto frequentata da infiltrazioni che l'hanno messa contro il marito anche politicamente. Quindi, però, possono affari loro, eh? Hanno 4 figli insieme, vuol dire che qualche un po' di schiuma è passata. Qualcosa è successo. I figli in realtà sono 3, ma comunque insomma il concetto che avete sentito da parte di Zeffirelli è questo. Bruno da Brescia, buonasera. Bruno. Grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Intervento sul il mio intervento riguardava il gioco di parole di Rondolino. Io non lo conosco, non l'ho mai sentito nominare e mi dichiaro questa mia colpevolezza. Rimango però allibito quando sento dichiarazioni che sembrano dichiarazioni di fatti avvenuti, ancora, cioè come se ci avessero dimostrazioni, prove, carte alla mano di Silvio Berlusconi. Al di là che fosse parole di Veronica Lario, che è malato. Un attimo solo, Berlusconi a Porta a Porta dal TG3. Le falsificazioni di certa stampa avevano indotto qualcuno a delle reazioni che non si sarebbero verificate se le cose dalla stampa fossero state riportate nella loro realtà. Il riferimento è ai telegatti del 2007. Anche allora Veronica si arrabbiò per certe frasi galanti che lui aveva pronunciato con delle ragazze. Frasi, dice, che si rivelarono allora false, come tutto è falso adesso. Tutto assolutamente falso, cioè tutto ciò che è stato una trappola in cui purtroppo anche mia moglie è caduta. E a questo accanimento contro di lui c'è un perché. E si vede che la sinistra e la sua stampa non riesce ad accettare la popolarità che è al 75%, cioè a 3 italiani su 4, è ridotta come vediamo e quindi ha cominciato soltanto con gli attacchi personali fondati sulla calunnia. Calunnie e menzogne, proprio una menzogna, dice l'accusa, che frequento le minorenni. Ci fosse stato un rapporto men che pulito, sarei stato un pazzo. Bruno, allora, da Brescia, ha sentito Berlusconi che replica la moglie e replica tutte le cose che sono uscite in questi giorni. Prego. Stavo dicendo, sono rimasto sconcertato dalle dichiarazioni di cos'è un giornalista, Rondolino, penso. Sì, non, cioè, so, non solo giornalista, comunque. Vabbè, allora, sostiene che Silvio Berlusconi, testuali parole, ci sono centinaia, se non migliaia, di ragazzine minorenni. No, minorenni non l'ha detto Rondolino, di ragazze, no, di ragazze, detto. No, di ragazze, sì, minorenni no. Che sono state con Silvio Berlusconi nelle sue, e che poi tutto deriva dalle sue alcove, perché in sostanza, no? E questa, sì, la classe, mezza classe dirigente di questo paese arriva dalle alcove di Berlusconi. Sì, questo l'ha detto. Vabbè, sì. A parte la propaganda, insomma. Sì, ma se ne assume la responsabilità di quello che ha detto Rondolino. No, ecco, quello che, ecco, esatto, questa è mancata questa sua frase. Io ho perso 20 minuti. Adesso lo dico, ecco, se ne assume la responsabilità. 20 minuti me li sono persi per ragioni di causa di forza maggiore, e l'ho detto anche alla sua redazione quando mi ha chiamato. Bruno, Rondolino ha detto un pezzo, non ha detto mezza classe dirigente, se l'ha detto era per esagerare, un pezzo di classe dirigente viene selezionata passando più o meno nella cova di Berlusconi. Riferendosi esclusivamente a un ministro, alla Carfagna, e basta, e poi si è permesso di dire che centinaia, se non migliaia, di queste ragazze hanno avuto rapporti. Passano, vengono frequentate da Berlusconi nel corso di questi anni. Questo è il Presidente del Consiglio. Ma Rondolino se ne assume la responsabilità, scrive certe cose, ecco, anche, bravo, sul suo blog, su internet. Lei ha detto esattamente la frase giusta adesso, io non l'ho sentita in diretta, se ne assume la responsabilità, e spero che qualcuno, non tanto perché è Silvio Berlusconi, ma perché è l'istituzione Presidente del Consiglio, che mi risulta esserlo comunque, fino a prova contraria anche questo, di tutti gli italiani, anche di chi non l'ha votato, bene, se ne deve assumere la responsabilità e qualcuno gliele deve far pagare, perché queste sono dichiarazioni pesanti, anche alla luce soprattutto di quello che succede anche a livello internazionale con i tanti amici che ci sono nella stampa di un certo tipo che lei conosce benissimo. Sì, ma no, ma lasciamo perdere gli amici nella stampa, vabbè, eccetera, ma non è quello il punto, perché sennò lei si mette dalla parte di chi pensa a un complotto, ad una trama, ad una cospirazione. No, guardi che la mia dichiarazione non ha nessun effetto. No, ma nessuno di noi rilascia dichiarazioni, per fortuna nessuno di noi rilascia dichiarazioni, né io né lei, che vengono riprese dalla stampa. Ma che in Italia sia concesso di dire questo sulla figura del Presidente del Consiglio. Io consiglierei a Rondolino di seguire un po' di più la trasmissione Report e di darsi da fare sui tanti spunti che la trasmissione Report su Rai 3, benissimo fatta, ci dà per andare a indagare sulle cose vere su cui vale la pena indagare. Ho capito. La ringrazio. Buonasera. Buona serata. Andiamo a Giulio da Milano. Buonasera. Ah, buonasera. È d'accordo con l'ascoltatore di prima? Rondolino ha esagerato, secondo lei, dicendo che centinaia di persone, se non migliaia di ragazze, sono state frequentate da Berlusconi, che un pezzo di classe dirigente viene selezionata sulla base delle frequentazioni di Berlusconi? Ma purtroppo, cioè, ci sono delle cose che non sono completamente sbagliate. Il fatto è che prima di dire che ha avuto rapporti intimi, ce ne basta. Cioè, il fatto che le frequenti, beh, è probabile, e io infatti da questo punto di vista non do torto alla moglie. Che però la moglie abbia frequentazioni di sinistra è noto, cioè non posso dire più, però comunque si sa, no? Giulio, si sa che significa frequentazione di sinistra? È vero che ha mandato una volta un intervento ad un giornale di sinistra, più o meno, se lo vogliamo definire come Micromega, che abbia detto delle cose che vengono attribuite, diciamo, che possono essere inserite, incasellate nell'essere di sinistra, ma insomma... No, io avevo sentito. E quali sono le frequentazioni di sinistra di Veronica Lario? Mi scusi. Un grande amico, non dico di più, così ho sentito. Vabbè, ma queste sono dicerie che non hanno mai trovato nessuna conferma. Il sindaco di Venezia, Cacciari. Non scendiamo così in basso. Cerchiamo di fare discorsi che riguardano appunto. Infatti, secondo me non c'è nessun complotto. I giornali di sinistra è normale che facciano questa cosa, d'altronde. Ce la mettono tutta, sicuramente si logorano del fatto che... Ma poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice e quello che scrive. È da giorni che l'Unità giustamente ha le pagine col titolo Basso Impero, descrive questo mondo berlusconiano fatto di donne, eccetera, eccetera, con articoli e con fonti, la maggior parte delle volte anonime, che raccontano tutto quello che avviene nelle stanze di via del plebiscito. Questo, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che scrive e di quello che dice. 19:28 c'è la borsa, tutto è legittimo naturalmente, poi nel caso in cui si superi il limite interviene sempre il codice penale. Ci sono decine di ascoltatori che in questi giorni, attraverso gli sms, attraverso le mail eccetera, mi dicono: perché lei non ha parlato della storia della Freedom House, che è un prestigioso, chiamiamolo così, think tank americano, centro studi americano, che ha declassato l'Italia da paese libero dal punto di vista della libertà di stampa a paese parzialmente libero. Poi sono venute le dichiarazioni di Franceschini in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera sull'Italia, sul pericolo Turkmenistan. Ora, una risposta a tutti questi ascoltatori che sono preoccupati per il fatto che l'Italia sia stata declassata da Freedom House, e dunque tutti quelli che devono sentirsi, non so, defraudati di un pizzico di libertà, perché lo dice Freedom House, risponde Oscar Giannino. Sentite. In 15 anni da che c'è Berlusconi, Piroso, quante volte l'abbiamo fatto? Ci siamo posti questa stessa, uguale, identica, noiosissima domanda. Cioè, del Berlusconi onnivoro, bulimico, il quale come una specie di prestigio dittatore riesce a raggirare il buon senso, no? La buona fede che dobbiamo attribuire agli italiani che votano tutte le volte che votano, sia quando fanno vincere Prodi, sia quando fanno vincere Berlusconi, sia quando fanno vincere gli uni che gli altri. No, è 15 anni che ogni volta che Berlusconi in realtà le vince, una sì, quando non le perde le elezioni, che regolarmente la lunghezza d'onda del dibattito politico diventa. E col sultano e col tiranno siamo Turkmenistan, il Burundi, Freedom House ci dice che siamo con Tonga come libertà di informazione. Quanto ha ragione Giannino? Secondo me no, al 200, al 500%. Ma andiamo agli ascoltatori, che sono sempre il fulcro della nostra trasmissione. Fabio da Roma, buonasera Fabio. Sì, buonasera, io però lei già mi fa agitare perché io non sono bene, meglio così, Giannino, meglio così. E beh, è giusto, è legittimo, è legittimo. Anche la Freedom House, Cruciale, ma neanche Giannino, anche perché sappiamo Giannino a quale parrocchia appartiene, Perché lei mette tutti in una parrocchia, no? Perché lei inserisce tutte le persone in una parrocchia. Ma parla, Cruciani, via, ma può darsi che parli dalla parrocchia, scusi Fabio, può darsi che parli dalla parrocchia sua o per quello che pensa per davvero, oppure la parrocchia... Allora, dai, c'è una cosa indipendente che dice una cosa, sarà vero, secondo me ognuno si fa... E invece Giannino non è indipendente. Giannino scriveva, mi risulta, per Libero Mercato, il giornale Libero, quello che ha pubblicato le fotografie, fa parte di una certa corrente politica, eccetera. Ah, eccetera. Beh, certo, certo, certamente, insomma, certamente. Prima l'amico... Le persone che libere pensanti non esistono, secondo lei, no? Le persone sì, che... Luciani, però, voglio dire, tutto vero, tutto non vero, anche le cose che dice Giannino, secondo me non sono vere. E vabbè, ma infatti questo è legittimo, però dire che appartiene ad una parrocchia, sostenere che Giannino ha torto, d'accordo. Perché dico una cosa non vera, Luciani, mi dica... Scusi, qual è la parrocchia di Giannino? Quell'appartenenza politica. Ah, beh, certo. Cruciani. E appartenenza politica cosa significa? Avere la tessera? Io l'ho letta la cosa lì della Freedom House, e c'era scritto che Mediaset ha una potenza di fuoco incredibile, fa menzione di Travaglio, che non lo lasciano parlare neanche un altro giornalista estero, va bene, e poi ognuno si fa le proprie cose, insomma, voglio dire, no? Però non prendiamo per oro colato neanche quello che dice Giannino. Io non prendo per oro colato quello che dice nessuno, sto dicendo che secondo me ha ragione lui, sarò legittimato a dirlo oppure no, oppure mi è impedito di dire. Ma ci mancherebbe, lei dice l'opposto e va bene così, no? Portare Oscar Giannino come fonte autorevole di critica verso la Freedom House. Ma io non ho detto come fonte autorevole di critica nei confronti della Freedom House, mi scusi. Il nostro, ahimè, 74esimo posto, voglio dire, io credo molto. E va benissimo, lei crede che siamo al 74esimo posto come libertà di stampa ed è legittimato a crederlo e ha tutto il diritto di crederlo. Io non ci credo e ho il diritto di dirlo. Giannino critica Freedom House e ha tutto il diritto di criticare Freedom House. Per carità, però lei fa un passo in più, Fabio, mi scusi se glielo faccio osservare. Lei critica quello che dice Giannino, pensa che noi siamo al 74esimo posto, pensa che ha ragione Freedom House e siamo nel campo delle cose legittime. Lei dice quello critica Freedom House perché appartiene ad una parrocchia politica, cioè tutto quello che dice Giannino, adesso stiamo parlando di Giannino, naturalmente potremmo parlare di chiunque altro, tutto quello che dice Giannino è tarato all'origine perché lui appartiene ad una parrocchia politica. Non dico neanche questo. Beh, cioè, io questo capisco, mi scusi. Io... Anche il 74esimo posto io comunque lo prendo un po' con le pinze perché non mi sento da questo 74esimo posto, però dico che c'è qualcuno che sono un campanellino, tutto sommato, è l'America, che prendiamo sempre esempio, che è democratica, che è libera, che è bella, che sono bravi, che sono forti, c'è sta pure Obama, eccetera, eccetera, quindi voglio un campanellino rosso, quindi sentire Oscar Giannino che dice non è assolutamente vero, perché l'onnivoro, voglio dire, una potenza di fuoco, veramente... il report del quale assolutamente prima che diceva quell'altra cosa, secondo me assurda, ma comunque che diceva di Report ha fatto presente che sulle frequenze televisive c'è lo strapotere di Mediaset, ma voglio dire, dunque non mi pare che siamo conto. Siccome c'è qualcuno che parla delle frequenze televisive, non mi pare che siamo in un regime in cui non si può dire nulla, Report è un programma che per onda sulla Rai liberamente. Io lo prendo con le pinze quello lì, ma prendo con le pinzone anche le cose che dice Giannino, comunque d'accordo, ma insomma non c'è il mio modesto umile intervento, che è questo qua, due cose velocissime, non vorrei rubare troppo tempo, velocissime. La prima di metodo, come quelli che parlano bene, che praticamente la prima faceva riferimento sempre con Rondolino al fatto che in televisione non è stato detto ed è vero, e sul fatto sulla carta stampata è stato detto ed è vero. Se mi permette una piccola precisazione, devo dire una cosa su questo, Fabio, sul fatto che le televisioni non hanno parlato delle frasi pronunciate da Veronica Lario. Io credo che all'interno di un servizio televisivo o all'interno, parlo proprio dal punto di vista tecnico, insomma, riportare alcune frasi, a parte credo che qualcuno l'abbia fatto, il TG3, forse la 7, sicuramente la 7, adesso dovremmo andare a prendere i singoli servizi. Insomma, prendere alcune frasi e riportarle, delle frasi anche gravi da un certo punto di vista, no? Delle frasi che fanno capire che forse ci sono stati dei rapporti tra Berlusconi e minorenni, non è una cosa semplice. Lasciamo perdere il TG5, evidentemente c'è un problema. Sì, allora, cioè, non è così scontato. Un altro campo che io pure lascerei perdere quel discorso lì, andiamo veramente su un campo molto pesante che io pure lì lascerei perdere, assolutamente d'accordo. Però mi fa piacere, Cruciani, che io in genere sono in disaccordo con quello che lei dice, però mi fa piacere che questa volta lei la questione privata, anche lei si è reso conto, perlomeno dice che è anche una questione pubblica, una questione che ci riguarda un po' tutti. Non mi sono dovuto sforzare, guardi, glielo assicuro. Mi fa piacere. I miei due interventi velocissimi, che veramente sennò vado dicevo al punto il fatto che alle televisioni no, sulla carta stampata sì, ma mi permetto di sottolineare, Cruciani, che la televisione la vedono 60 milioni di italiani, tolti i bambini e vecchi, 40 milioni la vedono. I giornali, quando fanno una tiratura buona, fanno 500-600 mila copie. Siccome è uscito su Repubblica e sulla Stampa, in totale avranno fatto un milione e mezzo di copie. Sì, insomma, c'è una bella differenza. Non lo so, lei pretende che la televisione, lei pretende che la televisione, lo scrive anche Travaglio da qualche parte oggi. Non era per metterla in comunione con qualcuno. Qualcuno pretende che sostanzialmente i servizi del TG1 e del TG5, perché di questo si parla, fossero incentrati i servizi sulla separazione tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi, a un certo punto fossero incentrati su quelle due frasi pronunciate, sulla persona malata e sulle minorenni. No, assolutamente no, però hanno la loro valenza politica, non privata. Ma sono dei servizi normali? Lei ha sentito dei servizi così scandalosi da parte del TG1 e del TG5? Sono dei servizi normali, certo, qualche frase omessa, qualche cosa in cui non si spinge più di tanto. La valenza politica, lo stesso Berlusconi prima ha fatto sentire che lui stesso è sorpreso del fatto che abbia preso questa piega. Perché? Perché ha proprio una valenza, secondo me, importante, politica e poi privata. No, ma io sono d'accordo, sono d'accordo con lei, e io credo che ci sia in questo momento il massimo della, se vuole, dell'informazione, della trasparenza, insomma se ne parla dappertutto, anche in maniera piuttosto pesante, come lei ha ascoltato prima dalle parole di Rondolino. La ringrazio. Fabio Giuseppe da Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Dicevo prima al suo collaboratore che non se ne può più, però non di Berlusconi in quanto uomo politico, di questa saga, alla grande non se ne può più. Giuseppe, non lo so, io sento un po' l'umore delle persone per quando organizzo le trasmissioni eccetera. Io credo che sia una storia di cui parlano tutti e che, sì, e ma... che comunque vada al di là della questione privata e pruriginosa. Però vede, qui stiamo parlando purtroppo seriamente di un arzillo 73enne che dovrebbe avere anche lui un po' più di serietà dentro, cioè senza esporsi tanto. Cioè non è a capo di un'azienda, Nazione. Giuseppe, lo vede che lei sta facendo un discorso più o meno simile a quello che abbiamo letto questa mattina sull'Avvenire, cioè sta trasformando questa vicenda. Forse anche il mio giornale. No, ma per carità, ma adesso per farle capire che non si tratta di una questione solo voyeuristica e pruriginosa, è una questione che ha a che vedere con il modo di fare politica, con la comunicazione, con un sacco di cose importanti di cui bisogna parlare, secondo me. Però certe volte si perde anche il senso della misura, cioè non è più fare politica promettendo e mantenendo il 20%. Lei parla di Berlusconi, Berlusconi. Ma è l'imputato numero uno, per quello che dico, se non se ne parlasse più, parliamo di quello che fa politicamente, le questioni di famiglia gliele lasciamo a lui. Penso che questo gli sia servito e gli servirà di lezione. Penso che dopo questo, come posso dire, non voglio neanche definirlo caos, definiamolo questo momento, e penso che ne trarrà delle conseguenze. Mi auguro che sia capace di tirare anche delle conclusioni e di guardarsi allo specchio e dire forse è meglio che cambi. Va bene, la ringrazio. Spero Giuseppe. Meglio, intendiamo. No, ho capito. Mauro da Viterbo, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, allora io... da quello che ho sentito così tra giornali, radio, televisione, penso che la sinistra abbia preso la palla al balzo per rinnovare il suo attacco contro la figura del Berlusconi, perché se no si spiega le minorenni, le feste private che andava. Beh, insomma, di minorenni ha parlato per la prima volta la moglie di Berlusconi, però ho capito, ma quella non era minorenne, 18 anni, insomma. No, vabbè, il giorno prima era minorenne, insomma. Però diciamo, io sono stato di sinistra, io aiuto subito, però c'era sto vizio maledetto della sinistra, quando c'era un avversario che non era, diciamo, facilmente abbordabile, se passava alla maniera sporca, cioè si distruggeva fisicamente, politicamente. Lei pensa che stia avvenendo la stessa cosa? Sì, hanno preso la palla a balzo, perché la stessa cosa fece la Craxi, se si ricorda. Il lancio delle monetine davanti all'hotel, che era presidente del Consiglio. Sì, a Raffaele. Si ricorda? Sì, non era presidente del Consiglio, in realtà, comunque, insomma, ho capito. Però loro hanno preso la palla al balzo per rinnovare l'attacco che gli è riuscito male, insomma. Ho capito, insomma, io però non ho questa sensazione, devo dire la verità. Ho 50 anni, insomma, cioè, io non l'ho vista passare di cotte e di crude, che tutti quanti sono rimasti sulla poltrona. Io mi riferisco a Craxi, diciamo, l'ha pagato solo lui, l'hanno mandato in esilio. Ma questo possiamo parlare a lungo. Il problema è che, secondo me, dal punto di vista politico, non è che il Partito Democratico, diciamo, la principale opposizione che ci dovrebbe essere in questo paese, per adesso non mi sembra che stia sfruttando politicamente o cercando di seguire la strada che prima ci indicava Rondolino, che è quella di parlare continuamente dei fatti privati. Certo, qualche giornale lo fa, l'Unità da qualche giorno ha un sottotitolo nelle pagine che dedica a questa vicenda di Berlusconi, dal titolo Basso Impero, in cui si racconta spesso, ripeto, con fonti anonime delle cose che avvengono nella stanza dell'imperatore, così la chiamano. Peppino Caldarola, buonasera. Buonasera. buonasera. Eccoci qui. Cosa sta avvenendo in Italia in questi giorni? Secondo me si parla in alcuni casi seriamente delle ripercussioni pubbliche di una vicenda che non è evidentemente solo privata. Poi è arrivato qui da noi Rondolino pochi minuti fa e ha detto... insomma, è vergognoso il fatto che la classe dirigente di questo paese venga selezionata nella cova di Berlusconi, che un pezzo di classe dirigente venga selezionato in questo modo e che centinaia, se non migliaia di ragazze passino per le stanze di Berlusconi. Ora Rondolino si assume la responsabilità di quello che dice. Lui dice una cosa che la sinistra, il centro-sinistra, dovrebbe sfruttare fino in fondo, cioè indagare, rivelare, andando a far conoscere le storie private e segrete di Berlusconi, perché evidentemente non è una cosa solamente privata. Guarda, io tengo molto alla coerenza. Noi quando, come sinistra italiana, assistemmo da lontano agli scandali che hanno riguardato il presidente Clinton, ci scandalizzammo contro i repubblicani e quella stampa che martirizzava l'ospite della Casa Bianca. Sì, ricordo. E solidarizzammo molto con la difesa che ne fece sua moglie. Quindi due pesi, due misure non funziona. Poi io credo che noi di sinistra, la sinistra, che per 15 anni si è gingillata con la questione giudiziaria e al termine di questo ciclo si trova Berlusconi al 40% e la sinistra mai così in basso come ora, spero non voglia passare altri 15 anni a trastullarsi sulla questione sessuale. Perché a questo punto chiudiamo baracche e burattini. Io penso che Berlusconi, chi lo vuole battere, lo deve battere politicamente. Questa è una vicenda sicuramente brutta e amara. Io ho ascoltato quello che lei diceva all'ascoltatore prima. Buona parte del pettegolezzo nasce anche dalle dichiarazioni della moglie, che sono state dichiarazioni un po' forti, insomma. Lo ha chiamato pover'uomo, si è lamentato con gli amici di Berlusconi perché non l'aiutavano, quest'uomo malato. Ha citato questi intrighi con le minorenni di cui non c'è traccia, non so cosa sa Rondolino, io non so nulla di tutto questo. Se qualcuno vuole portare la questione addirittura all'attenzione del Parlamento citando articoli del codice penale addirittura. Ma infatti secondo me torna alla questione giudiziaria, questo è il timore che ho, non tanto nell'interesse di Berlusconi, io non sono un elettore di Berlusconi, ma temo molto che la sinistra si incammini nella questione giudiziaria sessuale che gli farà perdere un altro stock di voti. Perché non si fa così. Berlusconi da Vespa, dove è andato oggi per rispondere evidentemente a tutte le cose che sono state dette in queste ore, ha detto che Veronica deve ammettere l'errore. Vabbè, queste sono cose sue, evidentemente. Infatti, si tratta anche di una strategia per il divorzio, eccetera, eccetera. Però ha anche detto, è tornato a parlare del complotto. Cioè la sinistra ha fatto credere a mia moglie certe cose, eccetera. Anche questo fa parte di una strategia, diciamo, comunicativa, o ci crede per davvero? Io penso che ci creda, però lui commette l'errore di dire sinistra. A me non risulta che nessun esponente del PD abbia cercato di avvicinare la signora Veronica Lario e di suggerirgli qualcosa. A questo punto spetta al Premier il dovere di dire a chi si riferisce. Io ho notato che ci sono alcuni esponenti del PD che hanno, come dire, sono intervenuti pesantemente, penso alla Bindi, che peraltro rispondeva ad una cattiva citazione di Berlusconi, sì. Penso a Castagnetti, però l'atteggiamento di Franceschini, francamente, fino a questo momento mi pare che sia stato abbastanza dignitoso. Giustamente di basso profilo su questa vicenda. Di bassissimo profilo, D'Alema non ha parlato per nulla, insomma, Bersani neppure, cioè i maggiori dirigenti stanno mantenendo un profilo basso. L'accusa alla sinistra mi pare assolutamente ingiustificata. Non così l'Unità, che... non così l'Unità, però è un altro discorso quello. No? L'Unità non è il giornale del PD. Adesso io non voglio difendere il PD. Da cronista osservo, avendo letto le agenzie di tutti questi giorni, osservo che non c'è un solo, tranne Bindi e Castagnetti, un solo alto dirigente del PD che abbia infilato il dito fra moglie e marito. Sì. L'Unità ci vuole infilare il dito, lo faccio pure. Insomma. No, ma certo, quello è anche il suo mestiere. Lei ha scritto oggi su Riformista: la signora non ha stile. Beh, poi giornalisticamente ci si divide, ma è un gioco delle parti, naturalmente, ed è un gioco solo giornalistico su chi sta con l'uno e chi sta con l'altro. Lei faceva delle considerazioni, so che lei non sta né con l'uno né con l'altro, naturalmente, delle considerazioni però sul modo in cui pubblicamente si è espressa Veronica Lario. Beh, guarda, io facevo anche degli esempi, uno in particolare. Se Silvia Sarkozy ha abbandonato il marito un mese dopo la sua elezione alla presidenza della Francia con uno stile straordinario, si è parlato di lei solo per un presunto SMS che lei avrebbe rivelato di aver ricevuto da Sarkozy all'inizio della storia con Carla Bruni. Poi di questa signora non abbiamo saputo più nulla, eppure immagino che anche in quel caso il divorzio sia stato frutto di una sofferenza personale. Non mi è piaciuta questa esposizione, come dire, della lite privata in forme pubbliche, anche nelle forme di un manifesto politico. Che diavolo c'entra se vuoi chiedere il divorzio, sostenere che l'Italia è governata da un imperatore e che tutti saremmo succubi di questo imperatore? Sì, sono giudizi che francamente avrei riservato un intervento meramente politico, ma mentre stai chiedendo a tuo marito il divorzio, perché coinvolgere tutti quanti noi in un giudizio politico sulla vostra vicenda coniugale? Mi pare francamente privo di stile. Grazie a Peppino Caldarola, grazie per essere stato con noi. 19:52. Maurizio da Venezia, poi Ignazio dalla provincia di Verona, Augusto da Terni, Valerio da Genova. Maurizio, allora, buonasera. Sì, buonasera. Dica. No, non vorrei che passasse l'opinione che la signora Veronica fosse un incapace dal punto di vista mentale. E chi lo sta sostenendo, mi scusi? No, nel senso che sembrerebbe che si faccia un attimino un po' influenzare da uomini della sinistra, il che la trovo veramente una cosa un po'... Vabbè, no, farsi influenzare da qualcuno non significa essere incapace mentalmente, sì, primo. Sì, appunto, appunto, sì. E quindi la trovo, no, siccome che poi in politica sembrerebbe che la stia mettendo il signor Berlusconi, nel senso che sembra che sia una cosa costruita dalla sinistra, che la trovo veramente una cosa... Ma infatti questo è assolutamente assurdo e non sta nel cielo né in terra. Berlusconi lo ha ripetuto oggi a Porta a Porta. Sì. Beh, volevo fare una domanda intanto. Sì. Lei si chiede come mai Berlusconi sia andato a Porta a Porta a esprimere... cosa vuole che le dica? Porta a Porta, dopo le cose che sono state dette, ridette, scritte, certificate in questi giorni, ha scelto di andare a Porta a Porta, e poi Porta a Porta risponde in qualche modo ad una logica di equilibrio. Dunque lei vedrà nei prossimi giorni, se non domani, sarà ospite Franceschino o qualcun altro dell'opposizione a dire la sua, insomma. C'è un equilibrio sempre, Porta a Porta è molto attenta a queste cose. Comunque certo non è casuale, Sì, certo. No, io l'ho cercata perché in questi giorni spesso tanti l'hanno chiamata per esprimere un po' l'opinione su quello che la questione delle veline in Parlamento, no? Il Parlamento che poi non ci sono in realtà, esatto, queste veline. Esatto, come che poi è cambiata la linea, non si sa se è cambiato o meno, non voglio entrare su questo. Però io volevo sentire da lei, dottor Cucciani, siccome io lo reputo una persona molto seria. Sì. Lei non è scandalizzato, nemmeno io. Da che però, cosa? Da che cosa? Mi scusi. No, scandalizzato non è scandalizzato e lo sono anch'io, nel senso non lo sono, sì. Nel senso che le veline potevano andare, qualcuna di queste poteva andare al Parlamento europeo. Ma non lo so, nel senso dipende, che non ho nulla di percorso. Dipende dal modo in cui vengono selezionate, sì, certo. Dipende molto. In Europa ci vuole gente, come si dice, con le palle, ecco. Sì. È per questo che mi aspettavo da lei non tanto che non secco sulle veline, ma sul fatto che oggi come oggi ci sono tantissimi laureati, ricercatori che trovano, che devono sbarcare. Capito, ma guardi che la politica non è presidio esclusivo di chi è laureato o di chi ha un mestiere, una professione. Così si tornerebbe ad una questione quasi di censo. Su questo bisogna stare molto attenti. 19:55, voglio ricordare che uomini politici anche di vaglia, che tutti noi diciamo essere comunque politici bravi, comunque la si pensi, per esempio credo Massimo D'Alema e altri, non sono nemmeno laureati. Cattolica di Pisa, l'università con la U maiuscola, è vero? Guardi, non lo so, posso essermi sbagliato, ma ci sono comunque diversi politici non laureati. Forse l'esempio di D'Alema era sbagliato. Berlusconi dal TG5, eccolo qua, Porta a Porta. Sì. In passato era già successo che falsificazioni di certa stampa avevano indotto qualcuno a delle reazioni che non si sarebbero verificate se le cose dalla stampa fossero state riportate nella loro realtà. Non mi aspettavo questa tempesta, sono accusato di cose. Va bene, sentiamoli allora, false. I titoli del TG5. I giornali Berlusconi in TV sulla crisi coniugale, contro di me menzogne, una trappola della sinistra, le veline non esistono, a mia moglie voglio un mare di bene, ammetta l'errore. Legge sulla sicurezza alla Camera, la maggioranza trova l'accordo, salta la norma sui presidi spia, tornano le misure anti-racket, da domani le votazioni. Tremonti conti ok, ora la priorità è l'occupazione. Fiat dopo USA e Germania, trattativa anche in Sud America. Tutte le cifre del futuro colosso dell'auto. Ragazzi con il coltello e allarme, c'è chi dà la colpa alla TV che è cattiva maestra, ma per altri è solo un alibi, un'inchiesta del TG5. L'Europa dice basta alla mattanza delle foche. Dal Parlamento di Strasburgo, stop alla commercializzazione di pelli e prodotti in tutti e 27 i paesi dell'Unione. A un mese dal terremoto esce Domani, i grandi della canzone italiana, da Venditti alla Pausini a Zucchero, tutti insieme per aiutare l'Abruzzo. Va bene, andiamo a sentire il TG1. Berlusconi, Veronica riconosca errore. Io con minorenni in menzogna, la sinistra mi attacca perché non accetta la mia popolarità. Sicurezza, accordo maggioranza, salta norma sui presidi spia, probabile fiducia. Franceschini, poche risorse a forze dell'ordine. Un mese fa il terremoto in Abruzzo, i sindaci discutono sui fondi per la ricostruzione. Bertolaso in diretta al TG1. I pirati assaltano una nave italiana nel Golfo di Aden, la fregata maestrale della Marina Militare li mette in fuga. Bullismo e coltelli, quasi una moda tra gli adolescenti, violenza, buon mercato, perché con la legge si rischia poco. Una casa invece dell'albergo, un fenomeno sempre più diffuso, affittare il proprio appartamento ai turisti per pochi giorni. Va bene, bisognerà indagare su questa storia dei coltelli, se davvero stanno diventando così di moda, diffusi, questa pratica di risse con i coltelli. Come ci indicano i telegiornali, non tutto quello che riportano i telegiornali e la stampa naturalmente poi corrisponde a una pratica diffusa. Vedremo anche nei prossimi giorni. Ignazio dalla provincia di Verona. Ignazio, buonasera. Buonasera. Dica. Prima di tutto volevo precisare una cosa. Io sono un cattolico praticante e un elettore di centrodestra. Sì. A parte questo volevo dire una cosa. Io non ho sentito una donna chiamare o telefonare a voi per dire la sua. Questo mi sembra anche un po' strano. No, ma nei giorni scorsi ci sono state moltissime donne che sono intervenute. Ecco, Alcune le abbiamo chiamate anche come ospiti. Volevo dire soltanto una cosa. Cioè, questa serie di uomini macho, anche Feltri, che io pensavo fosse un direttore degno, perché onestamente io leggo comunque il Libero e leggevo prima il giornale e quindi lo seguivo molto, mi ha deluso. Io mi sento deluso come uomo di destra e deluso come uomo, perché onestamente tutta sta gente che va a dare l'appoggio a Berlusconi su questa cosa, questo uomo che fa le sue battute, che fa le cose stupide, che dice le cose stupide sempre su ste donne e che la moglie a casa deve stare zitta e in tutti i modi deve sopportare tutto quello che comunque viene scritto in giro. Poi la storia che la sinistra... Ma veramente Feltri non ha scritto che la moglie deve sopportare tutto? No, ma io ho sentito prima Feltri, come ho sentito prima Zeffirelli, che comunque Zeffirelli, lasciamo perdere, un misogeno, quindi tutto ciò che fanno le donne è sbagliato, quello che fa l'uomo è santo e sacro. Quindi il discorso è questo, io mi sento femminista in questo momento. Io da uomo cattolico... Cioè lei ha notato per esempio nelle cose che ha scritto Feltri in questi giorni un eccesso di maschilismo, un'avversione così quasi di principio nei confronti di Veronica Lario in quanto femmina? Io non credo che sia così. Guardi, io le dico, non soltanto io ho notato questo in Feltri e in tanti politici, in tanti uomini che hanno chiamato anche in trasmissione prima di me. Sembra quasi che devono difendere un ruolo, ma quale ruolo? Il ruolo del macho? Sembra di essere nel bar proprio di periferia. Veramente mi ma guardi, io però non ho notato questo da parte delle persone che sono intervenute, mi scusi. Cioè poi il fatto di voler difendere Berlusconi in quanto espressione del machismo o del gallismo, bah. Sì, no, io penso veramente questo, poi un'altra cosa, io penso che questo comunque è un'opinione diffusa in Italia, perché vado in giro e sento cosa dice la gente, addirittura le donne che difendono Berlusconi su questa cosa, io vorrei vedere i loro mariti, i loro fidanzati facessero quello che fa Berlusconi, per me è un gallo cedrone, che onestamente io da uomo di destra che ho votato destra, non voterò mai più destra finché ci sarà Berlusconi a presidente del Consiglio. Dopo queste vicende? Io sono delusissimo. Perché ma cos'è che l'ha delusa di più? Ma mi ha deluso prima di tutto, faccia autocritica, stia zitto, non vada a porta a porta solo per interesse politico. Qui si sta parlando di un fattore di famiglia, figli, famiglia, affetti, sentimenti, amore. Ma dove sono finiti? ma noi dobbiamo dire cosa deve fare il presidente di tutti gli italiani. Io mi vergogno, io l'ho votato, io adesso come uomo credente cattolico lo detesto. Ha ragione a venire quando parla di maggiore sobrietà che ci dovrebbe essere da parte del presidente. Sì, guardi, le dico la verità, onestamente le dico la verità, io mi sento veramente, guardi, e mi sento, scusi se uso questo termine che magari non è leggero, schifato. Io mi sento schifato nell'animo. Io onestamente, in quanto cattolico, dice lei, in quanto uomo prima che cattolico, in quanto uomo, tutti sti uomini che io ho sentito prima di me difendere e dire, guardi, veramente io credo che Veronica Lario stia aprendo gli occhi a tanta gente. Poi può essere criticabile, il metodo, ok, perché magari poteva farlo in un altro modo, ma io penso che lei, poveraccia, non poteva fare diversamente contro l'uomo più potente d'Italia, cioè esprimersi pubblicamente. Eh sì, e come poteva fare? Beh, insomma, si può fare anche in un altro modo, come prima suggeriva Calderola, eh? Non è necessariamente obbligata. Anche Calderola nel suo modo di essere di sinistra, anche un macista lui. Quindi secondo vabbè, me. Vabbè, sono tutti chi prende le parti di Berlusconi, chi dice che Veronica Lario. Chiunque dice che magari Veronica Lario può avere sbagliato nei modi di esprimere il suo dolore, eccetera. No, dico, chiunque dice, non è che per forza deve essere un brutale maschilista contro le donne, un misogino, eccetera. Non è necessariamente così, eh? Sottile, io non credo che sia una cosa così brutale. Se lei va in giro per l'Italia si rende conto di quello che si dice nei bar. Guardi, io faccio un lavoro. E cosa si dice? Cosa si dice? Tutto quello che si dice, finché gli andava comodo, doveva stare zitta, doveva rendersi conto che stava col presidente del Consiglio, sapeva com'era il presidente del Consiglio, sapeva cosa andava incontro. Ma scusatemi, ma se l'è sposato, sono 30 anni insieme e hanno fatto 3 figli. Io non voglio insegnare a nessuno a vivere. Io onestamente, se mia moglie mi dicesse una cosa del genere, capito, farei autocritica, mi chiuderei io e lei e parlerei con lei. Ma purtroppo non andrebbe a porta a porta, lei non sarebbe andata a porta a porta. Infatti lei, no, come dire, non è il presidente del Consiglio, nel senso che non risponde a tutte quelle sollecitazioni cui risponde Berlusconi, che deve rispondere anche pubblicamente, perché ormai la vicenda è diventata pubblica, di una storia di questo tipo. La ringrazio. Eccoci qui, andiamo a sentire i titoli della 7. Mia moglie è caduta in una trappola. Berlusconi a porta racconta la sua verità dopo la richiesta di divorzio da parte di Veronica Lario. È una menzogna che io frequenti minorenni, dice il Premier. È una falsità, le veline nelle liste elettorali. Per iscrivere i figli a scuola non bisognerà presentare il permesso di soggiorno, salta la norma del disegno di legge sulla sicurezza che trasformava i presidi in spie di clandestini. Il dietro fronte dopo lo stop di Fini e un vertice di maggioranza. Dubbi dei sindacati Opel sul piano di acquisizione della Fiat. Nessun impianto sarà chiuso, ha assicurato Marchionne, ma ci saranno 10.000 tagli. Preoccupati anche i lavoratori italiani. Il gruppo di Torino interessato anche alle attività della General Motors in Sud America. Una canzone per il conservatorio e il teatro dell'Aquila, incisa da 56 pop star italiane. Giovanotti, puntiamo a vendere 1 milione di... Va bene, sono i titoli dei telegiornali che si chiudono tutti con questa operazione di alcuni cantanti italiani per l'Abruzzo. Alle 20.12 ancora parola agli ascoltatori, andiamo a Genova con Valerio, buonasera. Anzi no, Augusto da Terni, poi Valerio da Genova, Giuseppina da Milano, Marco da Roma e altri. Augusto, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Io volevo fare un'osservazione su la vicenda del divorzio, della richiesta di divorzio di Berlusconi sia così metabolizzata dalla stampa, no? Anch'io ce l'ho con Feltri, però proverò a dare una chiave di lettura differente rispetto alla... Perché lei ce l'ha con Feltri? Ecco, io vedevo, no? C'è l'interpretazione del caso del divorzio in chiave politica, gran parte della stampa, del giornalismo in genere, e con la normale contrapposizione fra gli schieramenti destra e sinistra, parlano di complotto, eccetera, quindi strumentalizzano giustamente il fenomeno da un punto di vista politico. Però alcuni giornalisti non si limitano, diciamo così, a difendere Berlusconi, ma come se fossero delle sentinelle che attaccano una sorta come degli anticorpi contro un virus, tentano un'azione denigratoria anche nei confronti della, del personaggio poi più silenzioso di tutta la vicenda, che è la, la signora Lario. Però mi scusi, siccome, Feltri, siccome Feltri è una persona che più volte ha preso delle posizioni anche contrarie all'iniziativa del presidente Berlusconi, è successo, non capisco perché la volta in cui punta il dito contro l'atteggiamento pubblico di Veronica Lario deve essere classificato come qualcuno che vuole, come dire, denigrare la moglie di Berlusconi come servo, eccetera eccetera. Me lo devi spiegare questo qua? No, ma qui a parte bisogna vedere i numeri, no? Quante volte è stato pro, quante volte è stato comunque, vabbè, c'è anche, no, una cosa che diceva il mio povero papà, che adesso non c'è più, che alcuni giornalisti scrivono funzione di come sono pagati o di chi li paga. Vabbè, ma comunque questo qui in genere... Veramente Feltri però, non è pagato da Berlusconi, è pagato da altri in questo caso. Beh, sì, diciamo, la famiglia Angelucci, diciamo. Diciamo, sì, bisognerebbe capire anche questi altri chi sono. E vabbè, che significa? Perché uno degli Angelucci è in Parlamento per il PDL. Sufficienti per poter pagare, però vabbè, comunque ci sono leggi. Guardi, allora fermiamoci a quello che dice Feltri oggi, per esempio, in un'intervista Riformista, che più o meno è quello che ha pubblicato nei giorni scorsi. Non credo che Veronica voglia smentire la sua vita da velina. Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, non si sente responsabile di aver scatenato le ire di Veronica pubblicando le foto di uno spettacolo teatrale in cui la signora Lario appariva poco vestita. Si sente in colpa per quelle foto? No, dice Feltri, le ha fatte lei, mica noi quelle foto, però pubblicarle quel giorno, quando gliele hanno scattate, evidentemente le ha fatto piacere, altrimenti avrebbe detto di no e si sarebbe arrabbiata all'epoca. Non credo che la signora voglia smentire la sua vita un po' da velina. Su via, allora era un'attricetta, mica recitava Shakespeare. Dica la verità, lei sta con Berlusconi, non entro nelle diatribe tra moglie e marito. Il giorno prima di pubblicare le foto avevo scritto un fondo sulla questione delle veline. Dicevo, perché prendersela con la scelta di candidarle? Sono ragazze che si vogliono impegnare, poi viva Dio, alle europee ci sono le preferenze, saranno i voti, e Veronica le ha bollate come sciarpame. Questo l'intervistatore risponde ancora Feltri, appunto, lei si è scagliata contro candidate provenienti dal mondo dello spettacolo e io il giorno dopo il mio fondo le ho ricordato che anche lei viene da lì. Quel mondo merita rispetto, se sono sciarpame le veline, sciarpame anche lei. O è biologicamente cambiata? Come la pensa lei su questo? Ma sì, diciamo che adesso si possono aprire tutti. Naturalmente Veronica Lario parlava di sciarpame politico, non è che parlava delle veline come sciarpame in certo, sé. Qui chiaro. C'è una differenza fondamentale. È chiaro. Ma è chiaro che adesso si possono aprire tutti retroscena, cioè, ci sono 30 anni di vissuto da parte dei coniugi che possono essere rispolverati, rivisti, rimodulati, secondo come cioè questa è la capacità di un giornalista di trasformare un evento in una cosa positiva o negativa, secondo come può ci essere. Ci fermiamo un attimo ancora dall'intervista di oggi di Feltri a Riformista. Chi critica le veline è snob, questa è la domanda, è razzista. Io proprio non lo capisco, questo razzismo culturale nei confronti di chi viene dallo spettacolo leggero. Tutti fanno discorsi moralistici e poi si cade nel cliché che se una è bella deve essere per forza pure puttana. Che cosa non le piace di Veronica? Come sta gestendo la vicenda? Se uno si vuole separare normalmente parla col marito e con l'avvocato. Lei invece parla con Repubblica, Fare Futuro, L'Universo Mondo. Ci manca solo L'Osservatore Romano. Insomma, fa politica, gli chiede l'intervistatore. Non lo posso dire, è ovvio che Repubblica ci inzuppa il biscotto. Se la signora Veronica non sa che parlando con un giornale si può scatenare un casino, è stupida. Poiché non lo è una furbacchione che vuole danneggiare il marito. Fatto sta che non può certo appellarsi all'etica. Eccetera eccetera. Allora, conclusione di Augusto da Terni. Ma sì, ecco, la conclusione era questa, che era poi la domanda che volevo formulare: ma se Vittorio Feltri è ancora veramente libero? Questa è una considerazione così cui non c'è, alla quale non si può dare una risposta. Che significa essere libero o non essere libero? È certamente libero intellettualmente, secondo me. Sì, come si può giudicare? Certo, quando vengono attaccati, diciamo, dei sistemi a cui lui, diciamo, ha una particolare vicinanza. E questo qui è la mia idea. Poi c'è una cosa straordinaria, c'è una cosa straordinaria nel seguito dell'intervista di Feltri. Le motivazioni con cui Veronica chiede il divorzio sono pesanti: la malattia, le minorenni. Ancora Alessandro De Angelis, l'intervista a Feltri. queste storie non esistono. Secondo me Berlusconi non va neanche con le maggiorenni, figuriamoci con le minorenni. E lei che ne sa? Uno di 73 anni che, come è noto, ha avuto un tumore alla prostata, non ha tutta questa attività sessuale, pure se è immortale come Berlusconi. Io che ho 65 anni faccio la mia bella fatica. Se non è per gelosia, perché vuole il divorzio allora? Sospetto che c'entrino i quattrini, ma c'entra anche un attivismo politico da portineria. Mi pare che Veronica abbia fini meno nobili di una separazione. Vuole distruggere il marito? Credo proprio di sì. Vuole distruggerlo anche politicamente. Insomma, non è che non le manda a dire Feltri, eh? No, no, ma senza dubbio. Augusto, uno così lei lo definirebbe una persona serva, come ha fatto qualche ascoltatore nei giorni scorsi? A me non sembra, a me non sembra, però. Ma io non lo so, però c'è Vittorio Feltri, è una vecchia conoscenza anche dal giornale, insomma, c'aveva. Se lo ricorda, c'è un certo. Io ci ho lavorato, e per questo dico, che è una persona libera dal punto di vista intellettuale. È uno dei grandi, però insomma. Dal punto di vista intellettuale. Antonio, Augusto, la ringrazio del suo intervento. Marco da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Grazie per l'opportunità. Grazie a lei di averci chiamato. Prego. Io purtroppo non sono d'accordo quasi con niente con quello che ho sentito stasera, almeno sulle polemiche che si fanno sulla. E allora mi dica la sua. Mi dica la sua. Ma a me sembra, guardi, questo è un grandissimo esempio di ciarpame politico che si sta facendo da 3-4 giorni su una vicenda privata. Chi lo sta facendo questo ciarpame politico? Il 90% delle informazioni in Italia. Quindi cioè? I giornali, io vedo anche che ci si strappa le vesti, Calderoli ho sentito, per fare un nome, insomma, che il TG1 non se ne è occupato abbastanza, sono cose incredibili. Questa è stata definita dallo stesso Berlusconi come una vicenda dolorosa e privata, e secondo me, anche se lui è famosissimo in tutto il mondo, dovrebbe rimanere. Vabbè, adesso non è perché lo dice Berlusconi, allora deve rimanere privata, mi scusi. No, Berlusconi dice che è una vicenda dolorosa e privata, però privata non è più anche per volontà di Berlusconi. Tutto quello che riguarda Berlusconi e la vita anche privata di Berlusconi è per volontà dello stesso Berlusconi qualcosa di pubblico. Questo non autorizza a intromettersi a. No, questo non autorizza a dire delle falsità mai, questo è evidente. Ma questo è evidente. Che una cosa, lui l'ha chiamata io, penso che lui si sta difendendo, lui avrebbe voluto mantenerla privata come ha chiesto questi giorni. Comunque, scusi, come si fa a dire di voler mantenere privata una cosa quando in tutti i modi la si vuole mettere la vita privata viene messa in pubblico? A me ha colpito molto un'intervista di Berlusconi, credo che fosse al Corriere della Sera, a Ferruccio De Bortoli, quando a un certo punto Berlusconi ha detto: io sono andato a una festa privata a Casoria perché mi ha invitato il padre, e fin qui tutto limpido, tutto normale. A un certo punto queste foto, quel diavolo di signorini me le ha chieste e le ho dovute, non l'ha detto, ma verranno pubblicate da chi? Una festa privata che diventa poi oggetto di un servizio fotografico, cosa c'è di più evidente del fatto che la vita privata di Berlusconi, ogni passo della vita privata di Berlusconi, a parte alcune cose naturalmente, diventa pubblica per volontà dello stesso Berlusconi, per cui se ne parla perché è una vicenda pubblica. Io ho visto in questi anni ha preferito tenere le cose private, cioè al di fuori della polemica. Lei mi sembra un bel fan di Berlusconi, e per carità, non c'è niente di male, però mi sembra che sia così, e la ringrazio. Dove andiamo? Valerio da Genova. Valerio, buonasera. Buonasera. La disturbo perché il mio intervento nasce da quanto sentito riferito prima un'ora fa dal dottor Rondolino. Il mio era un intervento prettamente pragmatico. Che significa prettamente pragmatico? È bello, una cacofonia. È stupendo, prettamente pragmatico, meraviglioso. No, volevo solo rilevare questo, polemicamente. Se, come ha detto il dottor Rondolino, il governo italiano, la classe dirigente italiana nasce dalle alcove di Berlusconi, dall'alcova di Berlusconi, e io devo pensare che l'ultimo governo Prodi, faccio un esempio, sia nato dalle alcove della sinistra, allora viva le alcove di Berlusconi, che almeno si diverte. Vabbè. Questo devo rilevare, basta. Vabbè, passiamo oltre, la ringrazio. Luigi Amicone, direttore di Tempi. Ciao direttore, buona serata. Ciao. Allora, ciao. Voglio un giudizio dal cattolicissimo Luigi Amicone su quello che ha scritto oggi Avvenire. C'è anche stato un intervento del Cardinal Bagnasco poco fa che ha detto, è vero, la politica dovrebbe avere maggiore sobrietà. Insomma, nel fondo di Avvenire di oggi, che è il giornale, l'organo dei cattolici, la Conferenza Episcopale Italiana, insomma un punto di riferimento per moltissime persone, c'è una critica neppure troppo velata al Presidente del Consiglio. Leggo, per chi non lo sapesse, naturalmente non si è obbligati a leggere Avvenire. Conclusione dell'articolo: sappiamo che un uomo di governo va giudicato per ciò che realizza, per i suoi programmi e la qualità delle leggi che contribuisce a varare, ma la stoffa umana di un leader, il suo stile e i valori di cui riempie concretamente la sua vita non sono indifferenti, non possono esserlo. Per questo noi continuiamo a coltivare la richiesta di un presidente che con sobrietà sappia essere specchio, il meno deforme, all'anima del paese. Sobrietà. Allora, Amicone. Ma io, francamente, questo particolare episodio non vedo una mancanza di sobrietà del Premier, vedo una mancanza di sobrietà di altri che hanno utilizzato e gettato in pasto una vicenda che forse in altre circostanze più eclatanti si sarebbe potuto più legittimamente evocare. Ma cioè, ha ragione Feltri quando dice che, insomma, alla fine c'è un attacco politico e Veronica Lario vuole distruggere politicamente Berlusconi, che quando uno vuole risolvere dei fatti privati dovrebbe rivolgersi a un avvocato invece di mandare lettere a Repubblica oppure a Lanza? Io comincio a sospettarlo, perché poi avrà le sue motivazioni, però la scelta di mettere in piazza su una vicenda che poi si è dimostrato documentariamente, no? La vicenda, non c'era nessuna minorenne nel senso di come poteva fare intendere un certo scandalo, no? Era una festa, sì, sì. In questa circostanza mi pare che i fatti siano questi obiettivamente, e forse c'era un sentimento che veniva, che era stato nutrito in precedenza, eccetera, però in questo caso specifico non vedo la mancanza di sobrietà del leader, vedo un'operazione un po' troppo, come dire, maligna, malevola, anche se magari fatta in buona fede, e che inevitabilmente si vede che ha anche un utilizzo chiaramente politico. Resto, da parte di chi questa operazione? L'operazione politica che il segretario del PD ha detto inizialmente, tra moglie e marito non metto dito, poi si sono buttati di fatto come... Beh, però non mi sembra, mi scusi, anche un critico del Partito Democratico come Peppino Caldarola prima ci ha detto, in questa fase l'atteggiamento del capo del Partito Democratico, poi qualche deputato può dire tante cose, c'è stata un'iniziativa dell'Italia dei Valori in Parlamento, l'atteggiamento del leader del Partito Democratico è stato anche di basso profilo su questa vicenda, non mi sembra che abbia cercato di intingere. Doveva richiamare Rosi Bindi, però doveva richiamare Rosi Bindi quando ha fatto. Vabbè, su Rosi Bindi c'è stata anche una battuta di Berlusconi, sì, in un'intervista al Corriere della Sera. Comunque però, sia, io credo sulla sobrietà siamo. Cioè, lei come cattolico non si sente un po' in imbarazzo come evidentemente si sente una parte dell'elettorato cattolico per questo atteggiamento un po' spavaldo di gallismo da parte di Berlusconi, in cui certamente la vita privata diventa anche un fatto politico e pubblico, la vita privata di Berlusconi, al di là poi di quello che accade per davvero nella vita privata di Berlusconi. Lei non si sente un po' in imbarazzo come cattolico o no? Io non mi sento in imbarazzo, vedo talvolta un'esagerazione che fa parte, secondo me, della persona, della stoffa umana di questa, di questa persona, che d'altra parte appunto esagera come possiamo esagerare molti di noi che abbiamo meno responsabilità, però alla fine, nella sostanza, io lo valuto sulla competenza e la capacità di decisione sugli affari pubblici, non io su queste cose, non mi interessano queste cose, certamente. Cioè, lei non pensa che una parte della classe dirigente di questo paese, come ha detto prima Fabrizio Rondolino, una parte, adesso non so dire quanta parte della classe dirigente di questo paese, venga selezionata sulla base degli umori sessuali di Berlusconi? Questo ha detto prima Rondolino, una cosa molto grave anche. No, io non penso che sia così, io reputo che abbia una certa intelligenza il Presidente, che l'abbia dimostrata, e che se gioca con troppa spregiudicatezza certe volte questo aspetto della seduzione, questo richiamo alla bellezza, agli aspetti dell'avvenenza femminile, in modo troppo spregiudicato, però nella sostanza non mi pare che di dovermi scandalizzare per questo, perché devo dire, anche guardiamoci intorno, la realtà può essere anche diciamo di che cosa dovrebbe essere fatto un paese, anche in questa sfera di tristezza, di cose brutte, di cose polverose, perché la politica è un posto dove non ci devono essere donne belle. Voglio dire, non deve essere questo il criterio fondamentale, me lo auguro. Belle e brave, ma che siano belle non è che mi spiace. D'accordo, grazie. Grazie a Luigi Amicone, grazie. Direttore di Tempi. TG2 l'abbiamo? Titoli del TG2. Berlusconi sulla richiesta di divorzio. Mia moglie è caduta in una trappola. Ammetta il suo errore. La sinistra mi attacca perché non accetta la mia popolarità. Sicurezza. Via dal disegno di legge la norma sui presidi spia. Per iscrivere a scuola i figli di immigrati non servirà il permesso di soggiorno. Probabile il voto di fiducia. Nuovo attacco mercantile italiano nel Golfo di Aden, pirati messi in fuga dalla nostra marina militare, decisivo l'intervento della fregata Maestra. Parla il TG2, il primo italiano risultato positivo, mai avuto paura, dice, mi sentivo bene. 5 i casi in Italia, il Messico conferma, c'è una riduzione dell'influenza. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il periodo appena trascorso è stato il più piovoso degli ultimi 20 anni in Italia, con il 54% di precipitazioni in più rispetto alla media. Allora, sono le 20:35, vi faccio riascoltare tra poco una delle frasi del giorno, secondo me, che risponde a tutti quelli che ci hanno scritto nei giorni passati dicendo c'era il rapporto della Freedom House che declassava l'Italia a paese parzialmente libero, l'Italia al 73esimo, non so che, 74esimo posto nella classifica dei paesi sulla libertà di stampa. Prima però voglio ascoltare Giuseppina da Milano, che stava aspettando da un po'. Buonasera Giuseppina. Buonasera. Eccoci. Senta, io partirei da ciò che ha detto Berlusconi, cioè che la fine del suo matrimonio è una cosa privata e non pubblica. E allora io mi domando come mai lui in televisione ha iniziato a dire, non so se si ricorda quando venne il ministro danese in Italia, Rasmussen. Sì. Lui, rivolgendosi a Rasmussen, dice: lei sì che è un bell'uomo, non capisco perché mia moglie non si sia innamorata di lei invece che di Cacciari. A parte non, il disse, fatto, non disse proprio così. Non disse proprio così, ora non ricordo le parole, però anche questo lo poteva dire a casa sua, in camera da letto. Guarda, perché l'ha guardi, detto disse, pubblicamente? No, ma lei ha ragione, lei ha ragione. Rasmussen è anche il primo ministro più bello d'Europa, disse Berlusconi. Ecco, penso di presentarlo a mia moglie, penso di presentarla a mia moglie perché è molto più bella di Cacciari. Mi deve scusare, io come donna mi sento offesa da come Berlusconi tratta le donne. 4 ragazze nella villa della Sardegna, se le mette sulle gambe, mi scusi, se come non le funziona tratta, qualcosa mi scusi. Funzionerà qualche altra cosa di Berlusconi, per cui non credo che lui si metta così 4 ragazze. Cosa voleva dire? Non lo so, me lo dica lei. Mi deve scusare. Me lo dica lei. Lei è una persona, io la seguo sempre, la trovo molto intelligente, cioè a Napoli si dice un proverbio, guarda, o vecchio lo proro cupierche, cioè vuol dire che non è tutto oro ciò che luce, qualche cosa verrà fuori poi, mi scusi. Va bene Giuseppina, vedremo. La ringrazio. Grazie di avermi ascoltato. Antonio buonasera. Da Roma, buonasera Antonio. Buonasera signor Cruciani. Dica, andiamo veloci, andiamo veloci perché devo chiudere. Dico. Se Giannino e Feltri sono giornalisti sicuramente liberi, penso che lo possono essere anche Scalfari e chi dice il contrario? E Montanelli possono essere. E entrambi mi pare considerassero Berlusconi un ottimo venditore. E vabbè. Ecco, quindi mi sembra che... opinioni? Come, opinioni di due giornalisti liberi come gli altri. Sì, giusto? Certo, opinioni. Come sono opinioni le altre, sono opinioni anche queste. Sono tutte opinioni. Allora, se è un ottimo venditore, mi sembra che tutte le volte che si è trovato in difficoltà abbia venduto ottimamente all'opinione pubblica la tesi del complotto. In passato con le toghe rosse, complotto comunista con le toghe eccetera eccetera, oggi come complotto anche il problema con la moglie. Sì. Ecco, quindi mi sembra che tutto si tiene, quindi ottimo venditore, e arriviamo anche alla classifica di Freedom, sì. Arrivo anche a quello. Arrivi, l'intervento doveva essere breve, va bene lo stesso. ok, io cerco di essere il più breve possibile, chi è un ottimo venditore chiaramente può esserlo meglio se ha a disposizione una serie di strumenti che sono quelli della comunicazione piuttosto che se non li ha, e quindi riesce a vendere meglio i suoi prodotti senza arrivare a un fatto di mancanza di libertà, però sicuramente per esplicare la sua attività di venditore ha degli strumenti che altri non hanno. Su questo non c'è dubbio, lei ha ragione, la ringrazio. Venanzio da Roma, buonasera. Buonasera, sono Venanzio. E intanto, dottor Cruciani, mi faccio i complimenti per la sua trasmissione. E comunque il mio intervento era sulla non difesa da parte sua del direttore Feltri. E perché intanto Berlusconi avrebbe fatto bene a censurare, se lui era al di fuori della conoscenza della pubblicazione di queste fotografie, perché la signora Lario è comunque la madre dei suoi figli e Feltri non si doveva permettere di fare questa cosa. Questo ma insomma, le foto dello spettacolo Il Magnifico Cornuto con protagonista femminile Veronica Lario, Teatro Manzoni di Milano, inizio degli anni 80, sono evidentemente foto che si possono pubblicare. Sono di 29 anni fa, quando Berlusconi era un imprenditore, e un imprenditore può, come oggi, possono fare quello che vogliono. Un Presidente del Consiglio un po' meno. Comunque, la signora Lario ha fatto bene anche a interessare i media, perché ha utilizzato gli stessi mezzi del marito, cioè lei è stata una maestra in questo, ha superato... Cioè lei dice, per mettere in difficoltà anche dal punto di vista del divorzio Berlusconi, non si può ottenere tutto in privato, bisogna parlare in pubblico, perché quello è il terreno su cui ci si confronta con Berlusconi, è così? Poteva, perché sarebbe stata massacrata, perché come fa adesso Berlusconi, che utilizza Porta a Porta, utilizza Porta a Porta dopo quello che è uscito da parte della dopo moglie. Quello che è uscito. Comunque, secondo me è stata ha sottovalutato la signora Lario. Questo può darsi. La ringrazio, Venanzio, la devo lasciare perché ci sono altri ascoltatori. Pietro da Caserta. Buonasera. Io volevo semplicemente attaccarmi a quello che aveva detto il direttore di Libero Feltri. Effettivamente la dialettica della signora Lario per il signor Berlusconi è quello di parlare appunto pubblicamente, e la loro maniera di parlarsi sono sposati da tanti anni e ci si confronta su questo terreno, quello pubblico, e era la maniera di dover dire al marito determinate cose che si sono private, ma il caso Levinsky insegna che di privato per un personaggio del genere non esiste nulla in realtà. Secondo lei ha ragione dunque l'ascoltatore precedente quando dice, una cosa del genere, siccome Berlusconi spiattella in pubblico tutta la sua vita privata. È proprio un risultato, della sua posizione. Certo, necessariamente la moglie risponde su un piano pubblicamente con lettere a Repubblica, precisazioni all'ANSA, fare futuro, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo 30 secondi. Luigi dalla provincia di Foggia con Giovanni da Pescara. Giovanni da Pescara. Dica. Sei pronto? Sì, era prima Giovanni da Pescara. Dica. 30 secondi, 30 secondi. Sì. Senta, io ascoltando la trasmissione mi è venuta in mente una cosa che disse Goldoni, che la fantasia... Si sente malissimo, allora Luigi dalla provincia di Foggia. 30 secondi, poi devo chiudere. Luigi. Pronto? Sì. Io volevo dire solo questo. Buonasera innanzitutto. Sì. Prima, insomma, il mostro è stato battuto nelle prime pagine dei giornali. E chi è il mostro? Chi è il mostro? Essendo un cittadino italiano che si sia la presunzione di innocenza. Chi è il mostro in questo caso? Berlusconi, penso. Chi è il mostro? Berlusconi? Chi sarebbe il mostro? Rimandiamo la risposta di Luigi dalla provincia di Foggia a domani 18:30. Ciao.